Italia in controluce. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi, una nuova puntata di Italia in controluce, il programma in due edizioni di Radio 24 che indaga nella cronaca, nel costume e nella società italiana. L'attesa, prima delle proiezioni riservate alla stampa, poi le reazioni di giornalisti e di commentatori, le polemiche, ancora l'attesa del pubblico, perché ciò di cui si parla è una ferita sempre aperta. Piazza Fontana, Pier Francesco Favino, Valerio Mastandrea, Fabrizio Gifuni nel romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, il reportage dietro le quinte a questo film di Marta Cagnola. C'è stata una bomba in una banca, sembra che ci siano tanti morti. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio, una buca di circa un metro di diametro. Marco Tullio Giordana, perché un film su Piazza Fontana? Ma guardi, è una domanda che mi faccio per qualsiasi film. Perché faccio sto film? Per chi soprattutto? Perché è così bello immaginarsi le storie, uno i film se li può anche girare soltanto per sé immaginandoli. Però poi uno dice, questo film lo voglio fare per qualcuno, lo voglio fare per la mia generazione, lo voglio fare per la generazione dei miei genitori, lo voglio fare per i miei figli, per i miei nipoti. E io ho pensato di fare questo film e soprattutto rendendomi conto che i ragazzi più giovani hanno ereditato un paese che è figlio di quella strage, cioè le reazioni, le controreazioni, gli anticorpi, la malinconia, il dolore, il senso di impunità verso il crimine che è succeduto dopo quella strage, ha fatto crescere una generazione di ragazzi in una sorta di incubo dove la verità non è mai raggiungibile e anche una forte mancanza di fiducia nella convivenza civile, nella democrazia, nelle generazioni precedenti, quindi di dare a loro una testimonianza, costruire un capitolo della memoria collettiva a cui potessero perlomeno informarsi di qualcosa di così importante che è successo prima di loro. Fascisti! Fascisti! Dimmi che hai sentito, a me lo puoi dire, a me lo devi dire. Altro che disgrazia, dobbiamo assolutamente concordare una versione. Come concordare una versione? Suicidio come ammissione di colpevolezza. La scelta del libro di Cucchiarelli. Il libro di Cucchiarelli è stata una delle tante fonti di informazione, la letteratura su Piazza Fontana è sterminata. Il libro di Cucchiarelli è interessante, sono d'accordo con lui su molte cose, sono in disaccordo su diverse cose. Io non sono schiavo delle fonti, per me, dentro di me, non è il motore principale di questo film. Il motore principale è stato quel tram 24 sul quale io ero a 200 metri di distanza da Piazza Fontana, di cui ho visto volare tutti i bigliettini del controllore e scendere da quel tram con la città immediatamente paralizzata, dalle ambulanze, dalla macchina, alle polizie, le facce della gente su quella piazza, i corpi che cominciavano ad allinearsi, a rendersi conto che era successo qualcosa di così orribile che all'inizio non si riusciva nemmeno a dire la parola bomba. La spiegazione che dicevano lì in quei pochi minuti subito dopo era una caldaia, è scoppiata una caldaia, ci sono un sacco di morti, una caldaia, e si è andati avanti con questa caldaia per una ventina di minuti finché poi non è apparso chiaro a tutti che era successa una cosa tremenda, cioè una bomba. Ma tu lo sapevi che era lui? Ci ho pensato subito, poi la scientifica ha confermato. Secondo te c'entrava con la bomba? Credo di no. Calabresi, fai una brutta fine anche tu. Finirai un suicida anche tu. Sì, bravo. Basta. Uno che ha sbagliato il numero. È inevitabile che tutti le chiedano se lei ha sposato una delle tesi possibili. Guardi, le tesi possibili sono tante. Io le illustro più o meno tutte. Io le metto a disposizione dello spettatore. Non voglio forzare lo spettatore a dire è andata così o cosa, lo voglio mettere in grado, disponendo sul tavolo tutti gli elementi, di capire e giudicare da solo. Di cosa mi state accusando? Della bomba sui treni d'agosto o di quella di Piazza Fontana? Si può sapere cosa volete da me? Cosa cazzo volete? Che sono 3 giorni che mi tenete in colpa dei. Oh, non mi mettere le mani addosso. Pier Francesco, che esperienza è stata? Cosa ti ha lasciato? Tante cose, le sto ancora scoprendo, le sto ancora vedendo. L'emozione di ieri a rivedere Claudia e Silvia Pinelli, le figlie, insomma, è stata dura. In tanti hanno detto che tu hai reso il personaggio in maniera incredibilmente somigliante. A te questo importava? Cosa importava venisse fuori di Pino Pinelli? A me importava che le persone che l'hanno conosciuto non si sentissero tradite nei tanti livelli che questa storia ha, che come vedi mi commuove, insomma, mi lavora dentro. Prima di tutto questo, però, poi anche la rivendicazione necessaria, tanto è vero che della libertà che abbiamo noi di interpretare, quindi quel gesto di necessaria menzogna che è qualsiasi rappresentazione del reale. Tanto è vero che ti dicevo che la prima cosa che io sono andato a chiedere era il permesso di tradirla, questa cosa, perché io non sarò mai quell'uomo e potrò, avendo la fortuna di essere stato chiamato a fare questa cosa qui, tentare di far capire chi fosse e qual è la sua importanza nella storia del nostro paese. Marco Tullio Giordana dice di non aver voluto sposare una tesi, ma di averle volute presentare tutte al pubblico. L'episodio della morte di Pinelli è proprio uno di quelli in cui, insomma, si è più dibattuto e le tesi sono tante. Tu come ti sei posto di fronte a questo mistero? Io sto col film, nel senso che io poi posso avere la mia opinione personale, ma non cambia le sorti né di quello che è avvenuto né giuridicamente. Io sto col film nel rivendicare il fatto che un film non è una sentenza, non è storia nel senso più nobile del termine. Un film è anche la possibilità di mettere sul piatto tutte quante le cose che sono possibili. Un film fa delle ipotesi anche, un film fa della poesia. Invece noi siamo sempre schiacciati, credo, come mentalità, e forse viene molto spesso, molto da lì anche, dalle ideologie, dal fatto che le cose debbano essere o in un modo o in un altro. Ecco, io penso che questo sia uno dei detriti di quella bomba, per esempio, il fatto di non renderci conto di quanto questo volerci dividere in bianchi e neri, di questo non voler vedere quante sono le possibilità delle nostre storie individuali, non serva ad altro che non a far star fermo questo paese. Tu ci firmi un verbale in cui dichiari che Palpreda spesso ha manifestato la necessità di azioni violente e la finiamo qui. Io non firmo nessun verbale. Non avete in mano niente contro Palpreda, volete che l'accusa la fornisca io. Ma siamo matti. Adesso basta, non parlo più. L'urgenza di fare dei film sulle pagine che non abbiamo più aperto, che apriamo poco spesso, della storia d'Italia. È grande soprattutto perché non è un'operazione giurassica, non so come dire, non è un'operazione luttuosa questa. Tant'è vero che non si esce dal film con quel sentimento tanto di moda e tanto statico come l'indignazione. L'indignazione ti porta a rinchiuderti a casa tua e a dire: oh santo Dio, ma com'è stato possibile? Vabbè, adesso mangiamo il sushi. Qui non c'è rabbia, qui c'è il tentativo di guardare oltre. Io mi fido di lei, voglio fidarmi di lei. Secondo lei la giustizia è giusta? Sì, signore. La giustizia è giusta. Le reazioni, alcune anche insomma importanti, dal figlio del commissario Calabresi, Adriano Sofri, lei con che stato d'animo le legge? No, ecco, lei mi cita due persone che sono fortemente implicate, no, per carità, io rispetto tutte le reazioni, ma le reazioni in questo film sono tantissime, magari non verbalizzate, non scritte sui giornali, e che poi innescano necessariamente delle polemiche in cui non voglio entrare assolutamente, ma erano le reazioni dei familiari delle vittime, di tante persone che hanno pagato con una sofferenza che si è trasformato in un numero, perché si dice 17 vittime, nessuno sa neanche i nomi di quei che invece erano persone. Io ho raccontato anche loro nel film e il film è dedicato a loro uno per uno. Quindi le reazioni come spettatori, molto commosse, partecipi ovviamente chi ha avuto a che fare con questa tragedia, ma anche molto commosse partecipi in ragazzi giovanissimi che non ne sapevano niente, ne sapevano poco per sentito dire, e che grazie al film hanno capito qualche cosa che nessuno aveva mai loro raccontato. Italia in controluce, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24 e vi parleremo delle mille storie dei respingimenti di immigrati dalla Libia che diventano un film con Mare Chiuso.